Siamo al volo sulle cose importanti. Tu ed io andiamo a fare la spesa senza litigare. Tu ed io ci rispettiamo prima che amarci. Tu ed io vediamo l'ora la sera di rivederci. E sei tutto quel che ho. E sei tutto quel che sono. Una parte di me imprescindibile. Siamo io e te, siamo noi. Tu ed io ci sosteniamo nei momenti difficili. Tu ed io non abbiamo mai pensato che sarebbe stato facile. Santi, tu e Dio, vinciamo sempre anche se siamo dei perbeni.